Con Emiliano Valente, autore e attore dello spettacolo Mi troverai tra le costellazioni, storie di resistenza picena, a Roma al Teatro Villa Pamphili, domenica 12 maggio 2019. Emiliano, ben trovato. Ciao Federico, ben trovato a te, ben trovato a tutti gli ascoltatori. Ci presenti un po' questo lavoro? Sì, è un progetto che nasce l'anno scorso insieme all'Istituto di Storia Vicena e all'AMPI di Ascoli Piceno. Ho dato vita ad una serata dedicata al 25 aprile e in questa ad una serie di studi sulla resistenza nel Piceno e nelle Marche in generale, in vari posti che sono medaglia d'oro al valore civile, e quindi nulla, da lì è partita una serie di studi e da questi studi sono tornato dopo 12 anni con piacere, insomma, a parlare di nuovo di resistenza. Pensavo che non servisse, invece 12 anni mi trovo, insomma, che comunque serve ancora. È una serie di raccolta di storie reali, vere, accadute, di fatti che io ho riassemblato, insomma, e riportato in vita e in scena. In questo caso ho già fatto, insomma, più volte nel Piceno, questa è la prima volta che lo faccio a Roma, e domenica. E quindi è un lavoro che spero interessi, nonostante sia di un'altra città, ma si parla sempre di resistenza, quindi spero che non sia un fattore geografico, ecco. Senti, su quali materiali hai messo mano? I materiali sono stati passati da alcuni, insomma, proprio dall'Istituto di Storia, e quindi era un po' la ricostruzione di quello che accadde il 12 settembre, che accadde qualcosa di molto simile al nostro 8 settembre romano, cioè i tedeschi entrarono dentro Ascoli e ci fu una prima forma di resistenza all'arrivo dei tedeschi, insomma, da parte della cittadinanza, in quel caso unita anche alle caserme che si ribellarono. Ci fu una vittoria, tra l'altro, molto importante, che poi fu trattata, cioè, nel senso, furono fermati oltre 100 tedeschi, si questa delle armi, poi ci fu una trattativa, insomma, furono restituiti sia i prigionieri che le armi, però era un segno di un'unione, un primo caso di unione. E quindi, partendo da lì e partendo da un incontro che ho avuto con un partigiano, che poi è scomparso proprio l'anno scorso, perché ho avuto la fortuna di conoscere, Guglielmo Scalabroni, che aveva scritto una serie di libri biografici, insomma, sulla sua storia. Lui era uno di quelli che poi si arroccò in un colle che sta proprio appena sopra d'Ascoli, si chiama Colle San Marco, in cui ci fu un cruento attacco da parte dei tedeschi il 3 ottobre, e nulla, lui lo raccontava nella sua biografia. Quindi quello fu un altro materiale che ho trovato, e poi una serie di altri libri che mi hanno, che mi sono cercato anche da solo, tra le varie biblioteche di storia nazionale, per avere un quadro storico generale, insomma, di fatti dell'accaduto. E devo dire che c'era tantissimo materiale, perché soprattutto allargando oltre Ascoli anche al resto delle Marche, diciamo che il fenomeno della resistenza è stato un fenomeno molto potente in quelle zone, insomma, sono stati diversi episodi positivi, altri molto cruenti e negativi, insomma, però un'infinità di battaglie. Come hai strutturato lo spettacolo? Allora, lo spettacolo è stato strutturato, sono partito da una delle storie che più mi aveva colpito, quindi invece di portarla un po' come mi piace sempre a me, in questo senso, invece di portare il racconto solo a chi aveva combattuto tra i monti, quindi togliere anche un po' questa iconografia del partigiano tra i monti con il mitra in mano, di spostarlo anche a chi aveva fatto altre forme, quindi alla cittadinanza, insomma, in qualche modo chi aveva preso parte anche in un'altra forma. E c'era una storia di uno che aveva passato i mesi, insomma, dall'arrivo dei tedeschi alla liberazione, all'interno di un ufficio postale, insieme ad altre due, e avevano il compito di smistare il materiale che arrivava, e quindi di far scomparire denunce, segnalazioni, di avvertire per tempo eventuali attacchi che potevano esserci a bande partigiane sui monti, che magari finivano nelle informazioni passate tra un comando e l'altro attraverso la porta da parte dei tedeschi, dei comandi fascisti. E quindi questo passa tutto il tempo restituirle per una serie di racconti. Quindi partendo da quello ho creato la storia su di lui, quindi è lui diciamo il personaggio principale, anche se non si vede, però insomma è quello che è un po' il motore, quindi ho una serie di lettere in scena ed è come se all'interno di ogni lettera che è in scena ci fossero ancora le voci, racconta i suoi pezzi di storia e quindi parto da lì e parto da questa serie di carte insomma che si trovano, si vedono già in scena, le lettere che passano, quindi dalla sua storia. E poi partendo da quello, la sua figura mi permette di raccontare anche tutti gli altri episodi. C'è stato qualche episodio in particolare che più ti ha impressionato? Sì, c'è una vicenda di uno dei personaggi che poi racconto, di questo partigiano che si chiamava Gino Saltalamacchia, detto il Rosso, che durante un conflitto, insomma, i tedeschi loro erano arroccati in un paesino che si chiamava Rovedino e vengono avvisati al mattino presto che i tedeschi stanno salendo su verso il loro paese e l'intera banda decide di scappare e lui, questo Gino Saltalamacchia, decide di non scappare insieme agli altri ma di proteggerli, che gli permettergli la fuga. E quindi rimane lui da solo a combattere per almeno un'ora da solo contro i tedeschi, cercando di tenerli fermi e permettendo agli altri di fuggire sulla montagna e quindi salvandogli di fatto la vita. Lui ovviamente non ce la farà, però sceglie di sacrificare la propria vita per salvare quella dei suoi compagni e gli permette di scappare. Quindi questa storia insomma, mi ha molto colpito, pensiero di sacrificare la propria esistenza per salvare quella degli altri, quindi a credere ciecamente in un gruppo e credere ciecamente in quello che si fa, insomma, qualcosa che mi ha toccato e commosso, insomma, dalla prima lettura. Emiliano, mi hai detto dello scorso anno, continuerà il suo percorso, lo spettacolo? Sì, si spera di sì, c'è un'aggiunta particolare per questa replica che è una novità assoluta e che spero che insomma che sicuramente porteremo avanti, che è la giunta musicale, ci sarà con me Carlo Amato che è il bassista di Tête de Bois, che ha visto lo scorso anno lo spettacolo ad Ascoli perché era ospite con i Tête de Bois insomma anche al concerto, ne abbiamo parlato insieme ed è nata questa collaborazione per la prima volta insomma che andiamo in scena insieme domenica, che resterà con me sul palco e l'idea è sì, è quella di farne diventare insomma, un lavoro da portare sia nelle scuole, che ho già fatto insomma, nella zona proprio di Ascoli e dintorni, ma non solo nelle scuole, per continuare a raccontare, avere la forza insomma, di raccontare quello che è la storia, quello che insomma, ci riguarda strettamente sempre, nonostante passino tanti anni e siano passati più 75, insomma, però comunque continua a riguardarci direttamente. Quindi l'idea sì, è quello di continuare a proporlo soprattutto nelle Marche, perché poi queste cose geograficamente funzionano sempre di più purtroppo, però non solo, perché credo che sia comunque universale il tipo di racconto, non è specifico e locale, insomma. Allora, intanto ricordiamo l'appuntamento a Roma, al Teatro Villa Pamphili, domenica 12 maggio 2019. Mi troverai tra le costellazioni Storie di Resistenza Picena di e con Emiliano Valente e le sonorizzazioni originali di Carlo Alma Amato dal vivo. Emiliano, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille Federico, e grazie a tutti gli ascoltatori e ci sentiamo per le prossime. Grazie ancora.